ti volevo chiedere, io mi ricordo che anni fa la sera accendevo lo scanner e sentivo le telefonate che facevano i passeggeri verso casa dove abitavano e li sentivo, ma ancora le fanno quelle cose lì? Da una nave, sto parlando da una nave. Cosa ho capito? Avevi lo scanner e sentivi le chiamate di chi? Un passeggero qualsiasi che era sulla nave, che stava andando a Genova, telefonava a casa sua direttamente nella nave, ma non con il cellulare, mi sia ben chiaro, allora non esistevano nemmeno qui in Sardegna i cellulari. Io lo sentivo con lo scanner era un ricevitore, mettevo quella frequenza e sentivo le telefonate che facevo dalla nave verso casa. Evidentemente la nave aveva tutta una apparecchiatura adatta per poter formare il numero, per chiamare poi magari a casa mia, a casa tua, a casa di chiunque altro. E sentivo le telefonate, quello che si diceva, e molto probabilmente questa telefonata era il gettone, era perché addirittura si mettevano in fila, e facevano le telefonate a turno, e a tempo soprattutto. Non so se ancora esiste questo tema. Perché? Sono quasi cambiate le telefoniche al posto, ma non vengono, no, è impossibile. Va bene, entro io, buonasera. Ciao Massimiliano, ti ho mandato un piccione viaggiatore, ascoltalo. Mi sto ascoltando, ascolta, Giulio, tu stai usando il 44, giusto? Sì. Siamo vicini, come mi ascolti, bene o male? Io ti ascolto benissimo, però te l'avrei già detto. Benissimo ti ascolto, Massimiliano, senza nessun problema. Claudio, mi ascolta bene. Gianni, tu bene mi ascolti? Sì. Eugenio, mi ascolta bene. C'è qualcuno che mi ascolta tutto qua. Non lo so il perché. Non lo so, la voce di cazzo, sempre quella. Dov'è il problema? Non lo so, Claudio. Io non so ricchio, poi magari c'è chi piace, c'è chi no, per carità. Dov'è il problema? Non lo so dov'è il problema. Tu mi ascolti bene o mi ascolti male? Mi ascolti tipo po', tutto papperato, com'è? No, aspetta un attimino, Claudio. Sì, se lascio l'NB inserito lo sento forse come lo senti tu, togli l'NB. Ah, bravo, hai visto. Io sai che sono preparato in materia, come te. Sì, perché Massimiliano? Ti spiego subito. Se tu hai il 60 non lo fa. L'MB, il microfono che stai usando tu ha una spinta superiore perché c'è anche l'amplificazione. Quindi se noi teniamo l'MB inserito, praticamente ti manda in distorsione perché stringe. Allora bisogna eliminarlo, toglierlo. Sì, perfetto, io ti ascolto benissimo, ormai lo so, quando entri tu disinserisco l'MB. E si conferma, hai capito Massimiliano? Ma questa cosa, la prima cosa non me l'ha mai detto Claudio. Anche cosa, quindi anche tu Giulio togli l'NP. No, guarda, io adesso che ho parlato di NP ho formato e non c'è differenza, per niente. Poi te lo spiego io perché non c'è differenza tra la radio il 440 di Tio, il 440 mio e il 440 tu. C'era un giro che stava parlando, rifai il passaggio che ti hanno involontariamente calpestato. Dino era tuo, non senti. Io non sono maestro ma parlo molto in italiano, quindi la radio di Tino, 440 di Tino ha il filtro per la M, come il mio ha il filtro per la M, il tuo ha il filtro per la M non ce l'ha, quindi che lo inserisci o lo disinserisci, l'NB non ha nessun funzionamento. Ah ecco, questo io non lo sapevo, questo non lo sapevo, vabbè dai, comunque per la M, cosa serve il filtro, mi sembra che non serve nemmeno per niente, assolutamente, perché le modulazioni arrivano qui perfette, quando uno trasmette bene, chiaro, io lo ricevo chiarissimo, bene, non ci sono problemi. per cui va benissimo. Per me la radio è perfetta, quella di Massimiliano, nonostante che siamo vicini, e dunque avrei dovuto sentire un pochino, diciamo, non dico distorta, però con un po' di amplificazione esagerata, invece no, è normalissima, amplificata, bella, chiara, pulita, senza nessun problema. Ciao Eugenio, ben sentito, dai, buona serata. Ciao Eugenio, ciao, dopo tanto, dai, speriamo che mi senti, perché di là per la parte non arrivo. Mi sto facendo le orecchie, lo sbizzo. Va bene, ciao, chi non sarà trovato a Capuano non trova il volante. Ciao, ciao. Eh sì, l'ho fatto rinnovare, va bene lo stesso. Ti annuncio i bambini, mi dispiace. Ciao. Ciao. Ci sentiamo nel corso, anzi fate sentire. Avanti Massimiliano. Sì, sì, già, io l'ho già salutato da prima. Ciao Eugenio. E la riascoltiamo le plus, dai. No, vedo che c'era da me invece di ciao, che sono di tu, un bel veloce. Ciao Eugenio, buonasera, ben sentito le plus e buon inizio l'anno anche per te famiglia. Fatti ascoltare che noi già ci siamo, ok? Giulio, non è come stai dicendo tu, ok? Fatto venire da uno che il tempo dell'uso era 1986. Il filtro per la M, se ce l'hai è meglio, ma non per le modulazioni. In questo caso stringi e allarga, siccome Massimiliano ha una modulazione molto larga, allora lo disinserisci e la stringi un pochino, o viceversa, ok, per questo tipo di modulazione, perché se tu hai un motocarro sotto casa tua che intendi la radio, ti fa un bel di QRM, quando tu inserisci l'NB te lo elimina, ok, a questo serve, non serve ad altro, però è una funzione che la radio quando è completa va bene, nessuno ti sta dicendo che non ascolti bene, per carità, però in questo caso quando le modulazioni sono troppo larghe o troppo strette, l'NB va inserito o disinserito. Massimiliano, non ti devo dire niente, cosa non te l'ho mai detto perché non ha nessuna importanza. L'operatore sono io, mi devo accorgere io dei difetti che può avere un altro operatore, non è che devo dirlo a te. Hai capito? Sì, ma stai calmo però. Si inserisce anche quando ci sono gli apparati modificati, lo fa. Esatto, infatti tutte le volte io vado sui 45 a ascoltare Massimiliano, ascoltare a chiunque, devo disinserire l'NB perché altrimenti lo sento tutto qua, capito? Come dice qualcuno. Comunque, vabbè, ognuno c'ha la radio sua, com'è e come non è, vabbè, comunque stiamo andando benissimo. Io ti ascolto bene, però devo sempre disinserire l'NB quando ti sento perché altrimenti sei troppo stretto, non si capisce. Vai Tino. Sì, scusate, avevo una bassa. Vabbè, adesso hai finito. Sono in mattina, la riprendo subito. Va bene, vai Gian. Cava. Vabbè, io ce l'avevo anche nel 140 il filtro così. Lo usavo specialmente quando sentivo gli apparati modificati, li sentivo tutti male. Se non inserivo l'NB, li sentivo male. 140 e 680 il filtro ce l'hanno di serie, il 440 e il 430 va opzionato, ok? Infatti, anche Massimiliano nella sua radio c'ha il filtro per la M. Ok, nella radio che lui usa, bensì 430, uguale come c'ho io, perché sono filtri che servono. Miezzaga! Nani, se la vuoi te la vendo, con questa ci bene, ti puoi regolare la voce. No, non ne voglio. Ho paura di usare quelle radio. No, stavo scherzando. La moglie è traghito, abbassa perché sei troppo forte che vicino. Guidastro, aumenta perché sei troppo lontano. Guidastro, ma fatemi capisciare. Io una vita ti ascolto così, Gianni, dici meglio di usare una di queste radio. Io è talmente l'abitudine, va bene così. No, non c'è problema. Poi posso anche usare un baracchino, ma esco sempre bene. Avanti Giulio. Sì, confermo anch'io qua. Confermo quello che hai detto. Io Gianni l'ho sempre ascoltato bene. Anzi, devo dire che Gianni con l'antenna messa a posto come si deve è il segnale più forte che io vedo qua. Per cui più di chiunque. Non ci sono problemi. E anche quello di Tino è fortissimo il segnale, più o meno a livello di quello di Gianni, o quasi. Prova a Tino che voglio dare un'occhiata, visto che considerato che adesso ho parlato di segnale, vai. Sì, un attimino, sono sempre al telefono, vedi un pochino, così almeno togli questa, soddisfiamo questa curiosità più che altro. Riprendo fra un attimino. Sì, è quasi 9:20, manca una stacca, può mancare due massimo, non di più, perché a 9:20 pieno non ci arriva, mentre invece Gianni molte volte mi arriva anche oltre 9:20, 9:22, una cosa del genere, però quando l'antenna è con tutti i radiali che è a posto. Avanti Gianni. Da considerare che Tino c'ha un apparecchio diverso, lo sta uscendo con 10 watt, c'è un apparecchio che io ho un apparecchio che sto uscendo con 10 watt in questo momento. Cioè, secondo me è un discorso che fa un po' ridere, perdonatemi la mia ignoranza, ma che discorsi fate se siete uno attaccato all'altro? E proprio si fa una lunga distanza. Che discorsi sono? Immaginate Giulio che è Gianni con quell'antenna disastrata, che poi non pensare che sia disastrata, quell'antenna è a posto, l'unica cosa che le mancano è tre radiali, ok, che influisce o non influisce, ma l'antenna è perfetta, perché non ha stazionaria, si è radiato bene, è 9:25, cosa che tu sei 9:20, ok, quindi 9:25 è Massimiliano che è dietro a te, da me però, io sono molto distante da voi, questi segnali ve li do reali, perché sono in alto e vi vedo a tutte e tre, però la distanza che avrete tra di voi è incomprensibile, non si può fare una comparazione, comparazione si fa fuori, quando c'è un corrispondente a Porto Torres, va tutte e tre che siete nel circondario chiedete il controllo, ma non potete chiedere così, uno attaccato all'altro, Giulio. No, ma io non dicevo che sto facendo una comparazione, io sto solamente dicendo che Gianni quando l'antenna era a posto, o perlomeno quando io avevo la mantova a tubo, mi arrivava oltre i 9:20, non c'era segnale che superasse quello di Gianni. Ecco cosa. Adesso ho dato il segnale che ricevo adesso con questa antenna che ho tutto lì. E addirittura Tino mi arriva leggermente più forte di Gianni anche, pensa un po', nonostante che Tino è molto più lontano per il fatto di Gianni, Gianni praticamente se mi affaccia la finestra lo vedo, probabilmente vedo anche a Tino, probabilmente, però Tino è in basso rispetto a me e dunque non lo posso vedere, però come segnale Tino mi arriva leggermente in questo momento con l'antenna così com'è, mi arriva leggermente più forte di anche di Gianni, tu arrivi leggermente più debole di Gianni e così via, e tu sei allo stesso livello né più né meno di Massimiliano o Claudio, per cui sono tutti segnaloni indubbiamente, siamo tutti sull'ordine minimo 9:15, però quando io avevo l'antenna proprio piazzata nel posto dove è nata praticamente, Gianni era quello che mi arrivava più forte di tutti. Oggi come oggi, con l'antenna dove ce l'ho adesso, mi arriva più forte Tino, più di tutti. Ecco cosa intendevo dire. Non è che sto facendo una comparazione, poi il segnale adesso è il tempo che trovo, è interessante che ci sentiamo, che se ne frega. Tutto lì. Avanti Tino, sei rientrato? È al telefono. Allora, per esempio, Gianni, in questo momento, io ho l'antenna bassa e ho Giulio, l'ho abbassata per altri motivi, devo farci dei lavori, però ce l'ho bassa. Gianni è 9 a picchi di 9:20, ok? Però sicuramente non sto usando magari la radio che usa sempre. Se no il genere anche a me, Gianni è il più forte in assoluto, capito? Gianni mi arriva sempre dai 9:20 ai 9:30. Però adesso con questa antenna, così tutta bisaffatta che c'ha, mi sta arrivando abbastanza bene. Diciamo che Gianni è molto in alto, anche se Claudio è più in alto di Gianni, però Gianni come segnale a me mi arriva più forte di Claudio, capito? E magari perché in linea d'aria sono più libero forse. Sono più vicino, dai. Ora. Questo qua, ma libero dove? Questo qui è il magnum, adesso l'ho messo la potenza 20 watt, e con 10 con picchi a 20, dai. parliamo di libero, perché poi chi ci ascolta, come già ti ha fatto il discorso Marco l'altro giorno, no? Che stavi parlando con lui, era in ascolto, poi sono entrato a salutarvi, a volte si sente un po' di... Dico, non è questione di essere libero, è questione di vicinanza, vicinanza. Ma oggi ho detto, lo sai dove abitatino? No, abita a metà della Budibudi, ce l'hai di fronte a te, molto più vicino rispetto a Gianni. Gianni rimane molto più indietro, ok? È come che tu e Massimiliano, cioè siete molto vicini. A metà strada c'è Tino, io sono dall'altra parte della città, io non ho niente che mi possa ostacolare, se parliamo di ostacoli, ma ho la lontananza rispetto a voi, ok? Perché tanto è vero, i segnali sono quasi similari, ma perché vi vedo, ma sono molto distante. Ma la comparazione che si può fare non è di praticamente non ho ostacoli, è solo una questione di vicinanza, perché da dove Massimiliano, che è al centro dei punti, ok, lascia perdere Giulio che siete attaccati, a dove è Tino, sono tutti e due uno di fronte all'altro, come Gianni è di fronte a Tino, ma di riflesso a Massimiliano, è molto più indietro Massimiliano Gianni rispetto a Tino. Tino ce l'hai a un chilometro, mentre a un chilometro in linea d'aria sto parlando, attenzione, mentre Gianni ce l'hai a 2 chilometri in linea d'aria, quindi è molto più indietro, senza contare a me che sono a 5 chilometri in linea d'aria. Sì, no, ma io non ho fatto questo paragone, Tino qua è fortissimo, capito, Cla? Giustamente Giulio è il più forte qua, perché ce l'ho a 1 chilometro, a 2 chilometri, però per farti capire, anche se tu sei in alto, sei molto più lontano, capito? Ma alla fine, cioè, come si può dire, è sottinteso, dai, cioè, sono segnali tutti 9.20, 9.25, 9.30, sono tutti segnaloni, sono tutti segnali che è come che sei tutti uno vicino all'altro, capito? Poi, cioè, Gianni è quello che mi è sempre arrivato più forte di tutti. Ok, vabbè, dopo Gianni come lontananza ci sei tu, ma come lontananza parla, però tu sei in alto e vedi, capito? Quindi sono cose che secondo me questi segnali non è che si possano neanche dire quello più forte di quello più forte dell'altro, secondo me. Poi dipende dalle radio, dipende dalle potenze, dipende da tante cose. No, se andiamo in tecnica, qua Giulio può rispondere tranquillamente, a Gianni ce l'hai diretto, a me ce l'hai riflesso il segnale, perché sono molto più lontano e praticamente vedo la tua antenna con la mia, ma sono di riflesso, tu ce l'hai diretto quindi hai dei segnali diretti, che sono quello di Franco di Sorso, che ce l'hai proprio diretto, è quello di Dino, è quello di Gianni e quello di Giulio, capito? Mentre io, essendo dall'altra parte, ti arrivo in condizioni abbastanza buone, ma sempre di riflesso rispetto a loro. È tutto qua il problema. Poi ripeto, dove sono io, a parte l'altezza, è che non ho niente davanti, quindi non avendo ostacoli, come dice Gianni, hai bene l'apertura per Alghero, per Porto Torres e per tutte le altre zone, mentre mi sentono e ci arrivo, non arrivo come arrivate voi nella zona del mare, perché voi ce l'avete nel mare, dico, non Porto Torres, nel mare verso Castelsardo, verso Santa Teresa, verso Sennori, verso quella zona, perché ce l'avete diretto, siete diretti, o sbaglio Giulio? Sì, ma è così, io lo so, è così, io ad esempio per Alghero non se ne parla nemmeno, soprattutto con questa antenna che ho adesso, già mi sentivano bassi quando avevo la mano, ma figurati adesso che ce l'ho questa, no, poi se c'è questa la foto, può darsi che mi sentano ugualmente a Alghero, però anche l'altro giorno c'era Valerio, io l'ho chiamato, lui sentiva il brusio, ma non riusciva a capire quello che dicevo. Non sentivo nemmeno io a lui, permetto che lui con 300 watt mi arriva a Santiago 5-6 qua, ma non si crede che mi arrivi così tanto forte. Per cui vedi bene che la posizione è importante, anche quella, certo che è importante. È importante la testa, ma è importante anche la posizione. Ecco, ad esempio io voglio fare la comparazione con Luigi da ottava. Luigi da ottava mi arriva più basso di quanto mi arriva Tino. Poi differenza della potenza, questa io non lo so. Io so solo che quando fa il latino in condizioni buone, come sa lui, come fa lui sempre di solito, ne arriva più forte addirittura di Luigi, che è a 2 metri da me. Ecco cosa intendo. Capito qua? Sì, sì, perfettamente, perfettamente. Ma se tu ti immagini che tu sei 9 più 20, ok, Massimiliano è 9,25, in queste condizioni, Gianni è 9,25, ok, a me, a casa mia è con 3 radio uguali, sempre della Kevin, e Tino è 9 più 20, cioè rendo l'idea, cioè dove sono io? E voi che siete in un circondario, i segnali che vi date possono essere 2, 3, 4 dB superiori a quelli che posso dare io. Capito dov'è la differenza? Perché, come hai detto tu, io ho la posizione, ma allo stesso tempo sono più lontano rispetto a voi. Tutto qua, però avete dei segnaloni, non dei segnali. Tu immaginate che a me Alghero, Valerio, quando attacca mi arriva 9 più 15. Quindi un segnale di Sassari, a me, Graziano, mi arriva 9 più 10, quindi se parla Valerio d'Alghero a Graziano lo sovramodula, immaginati la posizione. Sì, ho capito qua, certo, ma appunto per BTO è importante anche la posizione. Ad esempio con Franco siamo proprio alla grande, siamo. Sì, adesso prendo l'esempio di Focanza che c'era quel ragazzo nuovo, come la lupo grigio, eccetera. Ma se me non lo sentiva, io sentivo il brusio, non l'ho capito una sola parola, una sola non l'ho capita, mentre invece Massimiliano ci parlava, evidentemente lui è più aperto di me rispetto a dove questo ragazzo, o perlomeno la questione dell'antenna che io ci ho atterrato, nascosta da 4 mule, eccetera, è anche basta autocostruita, che non può essere certo un'antenna efficientissima. I motivi possono essere vari, non ci sono i motivi, perché se no l'avrei sentito bene anch'io, eppure io non ho sentito, ho capito una sola parola, però sentivo il mormorio, ma era un mormorio impossibile da ascoltare, perché non era possibile, mi sono messo anche le cuffie, nemmeno con le cuffie sono riuscito ad ascoltarlo, mentre Massimiliano ci parlava, visto la differenza come ho qua, eppure rispetto a me, Massimiliano è anche più lontano di dove sono io, cioè da quel ragazzo a Massimiliano è più lontano di quanto da quel ragazzo a dove sono io. Suppongo che sia importante anche questo a dire, no? Ma Massimiliano la posizione qui è quella piana, no? Perché ci sia mio padrino, no? Guarda, è diabolico, però quella piana è micidiale, la piana è micidiale. Massimiliano arriva molto bene, ma molto bene anche a Budesò, arriva molto bene, supera molto bene la collinetta mia, capito? Ha un problema un po' superiore al tuo, sicuramente con Alghero, però quella piana dei punti è micidiale, è favolosa. Se tu immagini, io l'ho sentito oggi, l'ho a casa di una persona, e arriva 9 più 10 dai punti. Cosa che non ci arrivo io ad Osilo, più 10. Il massimo segnale mi pare che mi ha dato Francesco è 9,5, lui arriva a 9 più 10, quindi quella zona lì dove siete voi, tu sei un po' più coperto rispetto a lui. Però Gianni qua io lo vedo, è il segnale più alto della zona bassa verso il latte dolce. Non ci arriva nessuno come arriva Gianni qua, nessuno. Ok, io a Valerio lo ascolto Santiago quasi 9 qua, quando attacca, attenzione, quando attacca, anche l'altro giorno è entrato e stavamo chiacchierando ed era Santiago 9, quindi io a Valerio lo ascolto, anzi per la posizione che sono anche a me mi arriva anche abbastanza bene. Poi c'era Mondino che sentivo, quell'altro radioamatore, mentre già il Gonad, Giovanni, come si chiama quello lì, anche quello lì ascoltavo bene. Quindi diciamo, sono un po' sfavorevole. Io da qui, Giulio, ho parlato con Daniele, motrice pazza, ed era a Cuglieri, capito? Per farti la lontananza, il più lontano c'era a Cuglieri e Montana, da qua, da casa mia. Capito? Domenico Tardaretto, vi ha sentito da Urbia, dal porto di Urbia. Adesso no, questa, in questa casa. Quando io abitavo nell'altra casa, sono state predite come sono le frequenze, com'è la frequenza, eccetera, la differenza che ci può essere. Abitavo al primo piano e avevo l'antenna, una Grand Prix dell'Allerne, quattro radiali, che se l'avevo attaccata alla ringhiera del Poggiolo, puntava appena dal tetto. Io sto parlando di tanti anni fa, quando allora la frequenza era follatissima. Io tutte le sere, immancabilmente, io e Ivan Di Ullio, l'avrai conosciuto sicuramente anche tu, parlavo tutte le sere immancabilmente con una ragazza dell'isola d'Elba, anche senza la propagazione d'inverno o d'estate, in qualsiasi momento, per dirti no. E dunque, bene bene, riuscivo a guardarci io e Ivan Di Ullio, quando che vendeva mobili, adesso non so se c'è ancora, non lo so, per dirti, pensate, non la sentiva mai nessuno questa ragazza. Eppure io, nonostante che ero nella valle, che abito nella valle di Punti, in quella posizione dove mi trovavo, ancora peggio di dove sono adesso, sentivo questa ragazza tranquillamente, basta Santiago 2 e 3, però la sentivo, e lei sentiva me, e facevamo dei discorsi per ore, io, Ivan e quella ragazza, per dirti, ecco, la posizione è importante, sì, certo che è importante, però bisogna trovare anche la canalizzazione giusta, in modo che le onde possano passare e possano arrivarci. Riprende Massimiliano. Sì, aspetta, facciamo riprendere a Gianni che sarà dormito. Gianni. No, sono dormito. Ho detto che a me Domenico Tarzanetto mi ha sentito da Urbia che è difficilissimo arrivarci. Lui ha detto che sentiva che c'era una rotta perché io rilanciavo, ma sentiva solo a me, agli altri non li sentiva per niente. E ha provato a chiamarmi, però io a lui non lo sentivo. Lui a me mi sentiva, ma io a lui no. Sì, non c'ero io il giorno, ma già me l'ha detto. No, già fai bene. Cosa sto dicendo, non è Ivan quello di Osiro, è Nello Mangatia, ok, che non c'è più, abita a Sassari, vive ad Arzonauti. Ivan era a Monte Oro, se ti ricordi. No, c'era Ivan di Osiro, qua, è un altro Ivan di Osiro, venditore di mobili, tranquillo, caspita, guarda che l'ho conosciuto, e ci ho parlato diverse volte, e ripeto, tutte le sere ci trovavamo, io, lui, e questa ragazza del dito all'Elba. L'isola d'Elba è in Toscana, dove è? Perché ti spiego, tu pensa che i segnali della TV dall'Italia verso la Sardegna arrivano dall'isola d'Elba, tanto per dirtene una, io con l'antenna della televisione, quando la Tele Monte Carlo, Sassari, se lo segnava chiunque, Tele Monte Carlo, Tele Cioccoli, allora, e tutte queste TV private che esistevano già fuori il continente, io mi prendevo, solo che mi giravo l'antenna, perché ce l'avevo nella ringhiera del terrazzino di casa, e mi avevo fatto i segni, le tacche, sia nel tubo che nella zappa, ed era leggermente allentata, però non si girava col vento, l'antenna non si girava, io mettevo in quella posizione, volevo sentire Tele Monte Carlo, e volevo Tele Monte Carlo, e a Sassari, Tele Monte Carlo, ancora manco i soldi, vero, sapete, qua. Sì. E così no, vabbè, anche io la montevo, questo infatti, col tuo fattilino parlavo con tutta la Sardegna o del centro. Sto parlando in VHF. Va bene, e le zone sono queste ci abbiamo e queste ci abbiamo tenere. Comunque, ribadisco ancora una volta, l'antenna di Gianni non ha niente, è perfetta, mancano solo 3 radiali che non servono a niente, ok? L'antenna è accordatissima, irradia benissimo, è perfetta, non ha niente, non ha assolutamente niente, quindi è in ottime condizioni. Il segnale che sta irradiando adesso Gianni è uguale a quando l'antenna l'ha comprata nuova, 9 più 25, quindi è assolutamente un ottimo segnale. Massimiliano è uguale, tu sei 9 più 20, l'unico segnale più alto di quello di Gianni è quello di Marco, nonostante usi 4 watt, mi arriva 9 più 30, perché ce l'ho di fronte a me in Viale Trento, proprio vedo nella casa mia, là sul tetto, vedo la sua antenna, capito, come vedo tutte quelle late voce, chiaramente col binocolo, non così a occhi nudi, come vedo quella di Luca del Monte, le vedo tutte perché è la zona più alta che Firenze a Sassari, i grattacieli da sopra a casa mia, dal terrazzo, il grattacielo di Sassari è molto ma molto più basso, nonostante sia un grattacielo, è molto più basso. Va bene, ma fammi, non ha nessuno, che lo so, e tu che 8 e mezza sono? Le 8 e 23? Sì, ma lo so, ho già, cioè ero qua, è vero, infatti adesso stavamo due anni insieme, tu e Gianni, c'era sì il fucile sotto, però è passato Gianni, per dire, no? Ecco, questa è la riprova che... Eia! Sicuramente anche Massimiliano, penso che sono portato a fermare, perché anche lui era presente. E stavo dicendo, per dirti no, ma... poi adesso questo è solo un discorso, poi a me non me ne frega niente. Eia! Santiago 9.30 o Santiago 5, Santiago 7, però... io voglio 20 watt, barone. Ma anche per allungare il tuo discorso, senza dire sempre le solite cose, eccetera, eccetera. Così abbiamo anche l'argomento di discussione, e non so che parlare di queste cose tante volte. E anche per fare esperienza, perché in un certo senso questo si tratta anche di fare esperienza, quindi considerato che abbiamo questa passione per la radio, e per sapere, capire più o meno come ci dobbiamo comportare, e se c'è da apportare qualche modifica la possiamo sempre fare, sul dire, no? Ecco, è questo che intendevo dire. Alla volte, bambino, cosa vuoi? È importante, nel senso che magari è più importante l'altezza, o viceversa, può essere più importante la vicinanza anziché l'altezza. Tanto per fare un esempio, io adesso ho un'antenna autocostruita, la originale, la Game Master, stando a quello che è descritto sul computer, eccetera, è un'antenna che funziona in lontananza, dovrebbe rendere di più in lontananza, ma di parecchi chilometri, non a distanza da me a Battimigliano ad esempio, o da me a Luigi, o da me a te. Ecco cosa intendo. Sono anche prove, tutto sommato, che lasciano il tempo che trova. Per dire, no, c'è anche quello da considerare, ci sono antenne che sparano di più in lontananza e meno in vicinanza. Dipende dal globo della radiazione che l'antenna ha e che manda. Ecco come. Avanti, Massimiliano. Sì, no, ma a volte vedi, quando ci sono questi discorsi piace anche, vedi, non ti accorgi dell'orario e va bene. Avanti, Mari, che c'è? Sono io, ciao Claudio, ciao Giulio, ciao Gianni, ciao Massimiliano, no, vi stavo ascoltando, vi saluto e chiudo che mi stavo già chiamando. Ciao Giulio stesso, riprendi Claudio, ciao ciao. Ciao Giuliano, dopo 60, te qua. Beh, già lo dico, non vedi i nocchi. Ciao Maria, un abbraccio, vai Giulio per salutare Marino. Ok, ciao Maria. Grazie per essere stato a salutare, spero che devi entrare anche a partecipare al discorso. Se noi siamo già amidosi, se che ti contagiamo. Ciao Maria, ci sentiamo, vai Gianni. Gianni si è accaramagliato. Maria, ogni segnalone, 9.60, opala. Che sono sotto casa tua, Massimiliano. Guarda, tutta faccia io sono sotto, ciao. Allora vieni che sto cucinando mezzagnello, se mangiamo mezza berra d'agnone, entra. Mi dispiace, Massimiliano, non mi piace, mi piace il porcetto. Certo ti piace, vabbè, io ho cucinato mezz'agnello, ma... Marino è dietro di Temmi. Già lo so che è dietro di me. Proprio, praticamente, adesso non so se in mezzo o dopo Walter. In mezzo o dopo Walter. Non so se in mezzo tra te e Walter o il dopo di Walter. Scusate, sono in mezzo, Claudio, in mezzo. Sono quasi fra in mezzo a Marino, diciamo, dai. Ok, scusate, ciao a tutti, a domani che mi stanno chiamando, ciao. Ciao Marino, ciao. Non ero a Calamaiato, stavo cambiando apparecchio. Oh, scusate, è una telefonata un po' lunghetta. State facendo loro già, chi sotto, chi sopra, chi in mezzo, chi in lato, boh, non so. Ciao, sono di Dio. Tutti i punti sono di Dio, e allora? Sì, ma questo vedi, ti diverti di più a poter stare i giocattolini, non mi arrivi, non ti arrivo, non ti sento. Ma mi sentite con questo apparecchio? Cos'è? Questo come mi senti, ma ci vediamo meglio o peggio dell'altro? Ma io ti sento bene, 9.20 a picchi di 9.25, sì. 9.20 a picchi 9.5. 9.25. Ah, cava. Questo è il Milan. Milan. Si sente. Ah, si sente. Buonasera a tutti. E il doppio... Arrumascio. Io ti sento più. Mi sono giocolato lì, stiamo là con l'eccolecola. Ah, Tino. E allora? Mi piace un giorno senza accendere l'eccalecca. Oh, ma ribadisco, fammi, non è nessuno. No, tanto Daniele non è pronto ancora, hai visto la foto? Sì, l'ho vista, ma state ne varie. Tu sei mai tu a mangiarti una tettina d'agnello? No, cazzo, fai cagli, hai rassegheggio a tutto. Vabbè, mi mangio l'anchi, tutti dai l'anchi. L'uso, beh. Chi su, a te l'ampio, è buono, ma te c'è. Vabbè, anche scaldato, domani te lo salgo, va. Che bastardo. Io non è una mazza, Tino, il te già detto, non è te lo porto, è l'usci. Te li scaldi, no, tu hai detto che sono buoni l'usci. In tempo di guerra che quelli ci mangiavano, vero, Mastro Giulio? Sì, ero qui, in tempo di guerra ci mangiavano lì se altro, carruba, e polizzetta, un bel. E poi il dolce, la duennina, a chi pure lui si mancava, pure il pane dolce. Vabbè, pazienza, tempi, è tutta un'altra musica oggi. Vabbè, comunque c'è sempre gente che sta morendo di fame nel mondo, c'è gente che sta mangiando a quattro ganasce, c'è gente che non ha nemmeno acqua per bere, se lo sappiamo, ma questo è un altro discorso, che è un discorso meglio non farlo mai perché è un discorso triste, è meglio provare da antenne, di transistor, di radio, eccetera, è meglio, perché no, perché alle volte si parla anche di pensione, alle volte si parla anche di lavoro, e tutti gli argomenti sono trattati, indubbiamente, questo è vero, non ci sono dubbi, però quando si parla principalmente di antenne, radio, insomma di elettronica, è lo scopo per cui abbiamo noi l'argomento giusto proprio intonato a quello che è la radio, cioè la passione della radio, se no cosa facciamo? Di pensioni? E cosa dobbiamo fare? Tanto la pensione mia è la mia, la tua e ognuna la sua. Insomma, le cose me la destino, sicché non mi sono problemi. Non è da così, ma se me li ha. Benissimo, benissimo. Come dire, se non vuoi fondare, no? Non era il caso. Oh, guarda che non ci vado nemmeno a male, magari parla se mai tanto, non è un problema. Ma per dire, no, ma il discorso secondo me è tecnico, di così, attinente alla radio, a quello che è la radio, è il discorso più bello che possa, perlomeno quello che più piace a me, poi ognuno ha i suoi gusti e i modi di parlare e di ragionare, ma per me quando si parla di radio, di antenne, eccetera, eccetera, di microfoni, di qualsiasi cosa, sempre che sia attinente alla radiofrequenza, per me è l'argomento migliore che possa esistere. Io sono soddisfattissimo quando si parla di quello, mentre invece posso essere soddisfatto lo stesso, però di meno sicuramente quando trattiamo altri argomenti. Vabbè, dai, dopo già la biduccio. Avanti, Tino. Vabbè, io ho un po' di bella qua in casa, quindi vabbè, magari da disturbo anche. Niente, dai, Gianni, dai, datevi da fare questa antenna adesso, sennò poi non si riesce a alzarla, ma è benissimo anche adesso, comunque ho capito che Claudio si è dato da fare per darti una mano, questo fa solo piacere, aiutare gli amici è una cosa bellissima, soprattutto quando si può. E poi, niente, io mi sono sempre proposto a chi ne ha bisogno, lo stesso, anche io sono del parere di dare una mano per fare le cose agli amici. Riprendi Gianni, vai. Infatti, anche perché io quando stavo bene, la verità, sempre una mano a tutti l'ho data. Però ringrazio a Claudio che si è prodigato a fare questa cosa, perché per me tanto non ce l'avrei fatta a salire sul tetto, con la gamba così non mi fido, non mi cede e rivaruggioso, no, assolutamente, perché a volte si indebolisce la gamba bru e si va, la rasura, quindi è meglio che sì che ho la stampella in mano, vi reggo con la stampella, ma quando non ha giù rivaro, quindi salire sul tetto per me sarebbe stata una cosa impossibile. Ma diciamo che ci siamo sempre aiutati tutti, dai, bene o male, anche con la di Massimiliano siamo andati a aiutarlo, a tante altre persone, a Natalino, eccetera, eccetera, sempre abbiamo dato una mano, dai. Qua quando si può si fa, è che adesso sono impossibilitato, se no sarei stato il primo qua. No, un attimo, qualche momento che l'antenna non si poteva piazzare, io sono andato, ho fatto un controllo e gli ho detto io l'antenna te la piazzo, gliel'ho piazzata a Massimiliano, tranquillo che l'abbiamo piazzata. La massa veniva lì a tutti, a casa mia non ci viene nessuno perché te mette l'altezza, capito? Te mette l'altezza. Massimiliano non ci sale sul tetto. Massimiliano è un gatto, Tino lo stesso. Però qualcuno teme l'altezza e non viene mai a aiutarmi. Perché lì per venire l'altezza ci vuole il paracadute. Paracadute non è nessuno di lui. Ah, Lucia, Lucia, va bene, va bene. C'era Gianni, ti ho detto, l'antenna ce l'hai nuova, al giorni quando sollevano la testa, se cambi Gianni si è cambiato l'antenna, e invece è tutto a posto, ha fatto un bel lavoro, ha fatto di Antonio, ce l'hai già nuovo, tutto a posto, è qua, tutto rifatto nuovo, e poi si mette il radiare e tu c'hai, devi dare solo a me una mano a terra, solo a terra, a sfilare il centrale, pure per il resto già mi arrangio io, no, non ho problemi di niente. Ho già, io glielo ho detto a Claudio, se fate tutto di domenica mattina vengo e ve la do una mano, problemi non ce n'è. E non lo so, no, se sarebbe arrampicato nessuno dove mi sono messo io per piazzare l'antenna a Natalino. Ma infatti ho detto sei un gatto, e anche da me quando mi hai girato le staffe della direttiva, ti ho messo la scala, sei salito in punta. E già t'appenti, anche Tino non teme al teste. Io non ne ho problemi, io qua a casa mi ha fatto sempre tutto da solo. Non so, però quando c'è il peso per le direttive, ad esempio eravamo in quattro, c'era Vanni, io, è venuto Elio per montarla, Luca Flipper. Poi per assemblarla le abbiamo assemblate tutte assieme, io, Walter, Fabrizio, Marco, quindi insomma, una mano si dà quando si può, non c'è problema. Va bene ragazzi, adesso io però voglio dare una mano al piatto, perché già tardi c'ho fame, quindi vi abbraccio tutti, Gianni ci aggiorniamo domani mattina, vi faccio sapere, ho un paio di cosettine da fare ma penso di liberarmi per andare a comprare quello che serve. Ciao Tino, Gianni e Giulio, a te Massimiliano, poi chiunque altro sia in ascolto, un saluto circolare a tutti, chiudo perché vado a cenare. Avanti Giulio, riprendi tu. Ok, allora sì, come ultima battuta, qui sì, adesso scendo per la cena, come ultima battuta voglio dire, però adesso, a parte tutte le installazioni che abbiamo fatto, antenne eccetera, per me l'antenna di Natalino, quella lì è un'installazione capolavoro, considerando innanzitutto lo spazio che c'è nella strada dove abita, secondo la difficoltà che avete trovato per il tabacco, quello lì è un capolavoro di installazione. In pochi sarebbero, penso, riusciti a piazzare un'antenna in quelle condizioni. Per cui, complimenti a chi ci ha lavorato. Va bene così, dai. Detto questo, vi saluto anche, così vado a cenare. Ciao Massimiliano, ciao Claudio, ciao Gianni, Eugenio, se sei ancora all'ascolto, poi chi c'era, Tino, eccetera, eccetera. Non so se mi sto dimenticando qualcuno, ma non credo. Saluto a tutti, ascolto il vostro Finolino, per cui passo la mano. Avanti Massimiliano. Giulio Geometri abbiamo fatto positivo, ciao Giulio, buonasera, ciao anche a te Claudio, faccio riprendere subito a Tino per i saluti, vai Tino. Bene, bene, pensavo che stava portando il cane a passeggio, invece deve muovere le mandibole in qualche altro, va bene, ciao, ci sentiamo, le prossime cosa volete che vi dica, tante cosce belle. Ma dai, ciao Giulio, ciao anche a Claudio, ci aggiorniamo domani Claudio. E niente, anch'io faccio QRT perché devo portare giù il cane, dai, mi è passato il tempo oggi, quando il QSO è bello, mi piace anche starci tranquillamente, anche se il portatile, potrei mettere le batterie e scendere giù col cane lo stesso, l'ho già fatto altre volte, per non perdermi il QSO, quando mi piace faccio così. Ah, metti le batterie al cane, va bene, ciao Giulio, ciao. Vai, vai, perché ero grande, no, no, io devo andare a mangiare, vero? No, per rispondere a Giulio, il geometri abbiamo fatto, abbiamo provato in quattro a piazzare l'antenna, nessuno è riuscito a far funzionare un gabbo. Io prima sono andato, ho fatto il sopralluogo, ho visto come si poteva fare, mi sono organizzato come 100% di quei lavori, nessuna difficoltà. Ciao a tutti, divertitevi, anzi andate a mangiare. Massimiliano, mica ti si brucia l'agnello. No, non ti preoccupare, che è tutto sotto controllo, cla. Cazzo, ci abbiamo i Doberman sotto controllando, l'avevo preso. Vai, piscia cocca di due, cazzo, che va a mangiare i nuvi, ci tocca di mangiare. Vabbè, comunque, tornando a quella di antenna, secondo me è una delle difficoltà di tutte quelle che ho piattato io, è la più difficoltosa che ho trovato, ma anche se l'abbiamo portata sullo stesso, mi sembra che ho 12 o 13 metri di palo, e poi legata alla finestra di John Lemon. Si può di raggiungere di Rovacone e arrivimo, e vabbè la provvisoria lì, poi però cosa c'era da fare lì col trappolo, un occhiello, è fatto lavoro diversamente, però cazzo ne ha fatto vento, e mi ha detto l'attolino che è sempre lì ferma, tranquilla e serena. Vabbè, e cazzo ne abbiamo fatto, a casa, quella tua avevamo piattata via Marco Polo, ti ma quella aveva solo 7 metri di palo, più ci avevamo aggiunto altri 4 metri, e c'era poco spazio per tirarla su, quindi cazzo, quando l'abbiamo girata toccava il palazzo di fianco, e quando l'abbiamo salita su poi era un problema piattare il dipolo, perché questo altro dipolo è salito tipo scimmia, ma qualche anno fa magari anche le forze, il peso me lo permettevano, era testa anche. Sì, ti dico solo una cosa, che in tutta la nostra noi ci conosciamo a vita, eravamo ragazzini, no? L'antenna che io mi sono spaventato solo a vederla è quella di Marcello e Maurizio, di quelli che c'era anche Antonio Riserva, allora Franco Delta 1, tu, c'era la Borema e Gavino, chiamiamola così, eravamo alla vicina. Ma una cosa così mazzolottica, Massimiliano, tu immaginati due tubi, uno dentro l'altro, saldati, di palo di luce, quelli che vedi nella strada, e in punta la mantova. E come l'avete tirato su? Diglielo a te, con i gozzi, con i gannai. Abbraccia. Sì, quello la rende molto... vabbè, però ti ripresenta una cosa, che lui era stato da abitare, quindi in un buco doveva per forza superare la soglia della strada per poter andare bene, perché quando abbiamo provato in situazioni normali non erogava come doveva andare. Sì, poi c'è salito Antonio su, testa calda. San Camillo ci vedi a Risantenna. Poi Massimiliano arriva, hai durato un bel po', arriva il maestrale perché era praticamente puntellata a terra in un muro, è arrivato il maestrale, si stacca un tirante, si è portato via muro, tubo e antenna, non ha più piazzato, però sono soddisfazioni quelle, vedi? Massimiliano, una cosa, guarda, io non so se Marcello o Maurizio hanno delle foto, eravamo, ti ripeto, ragazzini, ventenni, io perlomeno ero ventenne, forse voi 23enne, una cosa del genere, quindi Tino molto più piccolo di me, ma ti sto dicendo una cosa così pazzesca, io non l'ho mai vista fare da nessuno, mai fare a nessuno, una cosa allucinante, pazzesca, tu immaginati questo tubo, questi due pali di luce, innestati al contrario uno dentro l'altro e saldati, cazzo, una cosa mazzolontica, vabbè, dai che pronto, mi stanno chiamando, comunque ce ne abbiamo tolto soddisfazione, e spero ce ne togliamo ancora, fino a quando riusciamo a farle, se no chiameremo quelli più giovani a darci una mano. Ciao ragazzi, buon proseguo, se proseguite io vado a cenare, a domani, ciao. Ciao, dai, crack, infatti bisogna farli entrare questi giovani che poi ci potranno servire. Già, ma se non entrano, cosa vuoi ti dici? Noi, ti ripeto, fino a quando ce la facciamo, non lo facciamo. Quando non ce la facciamo più, io perché voglio cercare di mettermi le filari, perché così non ho bisogno di chiamare nessuno e stare appeso per i tetti. Vado avanti, tranquillo. tranquillo e sereno fino a quando ce la faccio, se no le manutenzioni qua è un casino a fare. Dai, largo ai giovani, ciao ragazzi, a domani. Ciao, ciao, ciao. E i giovani sai come entrano? Con il telefono in mano o con la PS4 fra le dita, cosa vuoi farci? Purtroppo l'era è questa, eh. L'altro giorno ho visto questa bambina alle poste, se ci aveva un anno e mezzo e troppo, c'aveva il cellulare in mano giocando con quei giochini nel telefonino. Una cosa pazzesca, come faceva andare questi giochini? Io riprendo lo stesso, dai, che mi ha chiamato Daniela che c'è da controllare l'anzone, se no cazzo lui se ne scappa dal forno, ci tocca anche senza mangiare stavolta. Dai, ci sentiamo ragazzi, ciao Tino, Gianni, Claudio e tutti quelli che facevano l'ascolto nel canale 10, da. Bello, mi è piaciuto questo corso stasera. Ciao, ci sentiamo. Poi fatemi sapere se per domenica vi serve una mano che fate questo lavoro, vengo, dai, ok? Ciao, riprendi Tino. Va bene, ciao Massimiliano, pensavo che il tuo forno andava in protezione quando era quasi cotto, così almeno non l'ho bruciato, ma ho visto che sia ancora l'antica, quindi devi andare a controllarlo. Ogni tanto un assaggino per vedere se è cotto. Sto scherzando, va bene. Ciao, ciao Massimiliano, ci sentiamo. Tante cosce belle anche a te, vai. Chi ci è rimasto? A parte Gianni, non so, ormai Gianni è andato via, Claudio sei ancora lì, nessun altro, chi ci è rimasto? Va. Nessuno, va buccia, divertitela.